Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, comprereste uno smartphone da un centinaio di euro senza uno straccio di libretto, delle istruzioni e di garanzia? Probabilmente no. Eppure, come abbiamo ricordato spesso in questa trasmissione, siamo abituati ad acquistare case, appartamenti, edifici di vario tipo, dei quali non sappiamo praticamente nulla. Non sappiamo quanta energia consumeranno, dove passano tubi e cavi, qual è l'effettivo stato degli impianti e delle varie componenti edilizie. Spesso non sappiamo nemmeno di che cosa sono fatti i muri e qualche volta lo scopriamo a nostre spese il giorno in cui questi muri crollano a causa di un sisma. Ed è proprio al recente sisma in centro Italia che si deve la riaccensione del dibattito intorno al cosiddetto fascicolo del fabbricato, che appunto risolverebbe questi problemi, invocato da anni dagli ordini professionali, finora invano. Ne parliamo con Sergio Molinari, che è consigliere nazionale del CNP, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Laureati, che è impegnato da anni su questa partita. Buonasera Molinari. Buonasera Melis. Allora, di che cosa si tratta brevemente e perché soprattutto sostenete la necessità di introdurre questo fascicolo del fabbricato? Ma che cos'è il fascicolo? Il fascicolo è uno strumento che serve per analizzare, attraverso l'uso di una metodologia condivisa, lo stato di conservazione di un immobile. È un documento sulla storia dell'immobile, è un compendio di informazioni, è una guida all'uso dell'immobile, come si fa ad adoperare una casa, perché le nostre case sono sempre più complesse, sono sempre più dotate di sistemi e di impianti complessi, ed è un modo, anche una guida per la corretta e programmata manutenzione. Ecco, questo è sostanzialmente il fascicolo del fabbricato. Ecco, forse questo aspetto della manutenzione è uno dei motivi più importanti per cui andrebbe introdotto. C'erano dei dati, se ne è parlato recentemente in un convegno, lì ci siamo incontrati, c'erano dei dati impressionanti sul numero di incidenti, per esempio, domestici, no? Certo, tante volte noi ci sono stati tanti incidenti che sono dovuti agli scoppi delle centrali termiche o alle perdite di gas. Questi incidenti fanno i morti al pari dei terremoti, magari sono più diluiti nel tempo, ma sono numeri che fanno impressione. Comunque sono 600 circa all'anno i morti per queste ragioni, sono due terremoti come l'ultimo. Ecco, sostanzialmente. Ecco, rendiamoci conto di cosa vuol dire. Ecco, per cui il fascicolo ha proprio anche lo scopo di innanzitutto di conoscere bene questo immobile, come è dotato, quali sono i suoi limiti, ma soprattutto quello di rilevare le sue deficienze. Questo è il bello del diciamo fascicolo. Che conoscere serve per poter intervenire in modo anche puntuale. Ecco, in quali circostanze voi proponete che debba essere prodotto, le chiedo a questo punto? Per esempio c'è la certificazione energetica, che potrebbe far parte, per intendersi, di questo fascicolo, che viene prodotto ogni volta che c'è una compravendita di una casa, no? Noi diciamo che il fascicolo del fabbricato deve avere un ruolo di semplificazione, vuol dire che sostituisce altri procedimenti amministrativi, è un ruolo di certificazione. Quando deve essere utilizzato? Ma quando, nel momento in cui per esempio esiste un passaggio di proprietà o una successione testamentaria, oppure si fa un intervento su un immobile. Se diventa obbligatoria l'istituzione del fascicolo, nel momento in cui si costruisce una nuova casa bisognerà avere il fascicolo del fabbricato, che è esattamente come il libretto della macchina per la nostra automobile. Senta, dalla Corte Costituzionale, da qui il fascicolo del fabbricato proposto a volte da alcune regioni è stato bocciato 3 volte, alle associazioni, salvo qualche caso, diciamo, dei proprietari immobiliari, sembra in realtà non piacere a molti. Ci spiega perché? Sì, vediamo di capire l'aspetto, diciamo così, giurisdizionale. È sempre stato bocciato dalle iniziative delle regioni perché la competenza in materia di salute e di sicurezza è materia esclusiva dello Stato, quindi è un problema di attribuzione di competenze. Mentre per quanto riguarda i detrattori del fascicolo, sono invece quelli che pensano che questo qui sia un ulteriore modo per aggravare gli adempimenti del privato. Invece noi diciamo che questo è il sistema per eliminare taluni procedimenti, o meglio condensarli in un'unica cosa. E poi l'altro aspetto che forse è un po' sottaciuto è che chi è preoccupato del fascicolo è preoccupato di probabilmente constatare la reale situazione del nostro patrimonio immobiliare. E certo, diciamo soprattutto grandi proprietari immobiliari forse non sono felici di vedersi certificare che molti degli edifici che affittano per esempio, hanno una qualità molto bassa o addirittura sono insicuri. Addirittura pensiamo che cosa potrebbe accadere se un domani ci fosse questo fascicolo, io affittassi la casa a qualcuno e questa gli crollasse in testa o robe di questo genere, e ci fosse la prova provata che tutto questo era prevedibile, no? È come dire, Melis, occhio non vede, cuore non duole, insomma, ma certamente non si possono affrontare in questi modo le cose, soprattutto in un grande paese, in un paese che vuole essere così alla ribalta dell'internazionale. E insomma, questo sarà un tema da monitorare anche rispetto a questa partita di Casa Italia, perché se poi saltano questo tipo di meccanismi è un po' un'occasione persa. Va bene, grazie Molinari per intanto. Grazie a lei, Miris, e un saluto a tutti. Grazie. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata, buona continuazione qui su Radio 24.